Oggi è la domenica trentesima dell'anno e dell'anno B, trentesima del tempo ordinario, e nel Vangelo della Messa troviamo l'episodio narrato dal Vangelo di San Marco del cieco di Gerico di Bartimeo. Marco cita il suo nome, dice anche il figlio di Timeo, forse per spiegare il significato di questo nome, Bartimeo, che si chiama così, il figlio di Timeo, oppure perché avendolo poi conosciuto ed essendo diventato una persona che ha seguito Gesù da vicino, forse hanno conosciuto anche la sua famiglia, no? Nel Vangelo di Marco ci sono diversi nomi di genitori, no? Anche Simone di Cirene è il padre di Alessandro e di Rufo, no? lo presenta nella sua, sì, anche nella sua paternità, probabilmente perché poi questi figli erano ben conosciuti tra i primi cristiani di Gerusalemme. Noi nei giorni scorsi abbiamo meditato sull'umanità di Gesù e in particolare, ecco, poi sulle sue mani, sul suo sguardo e sulla sua voce. E penso che in questo brano del Vangelo, come in tantissimi altri, Gesù ci si presenta con il suo cuore che ascolta, che dà retta, no? alle nostre grida, alle nostre difficoltà. E possiamo leggere in questi termini questo brano del Vangelo e anche vedendo come a volte il Gesù trova ostacoli addirittura proprio nei suoi discepoli a poter manifestare questo suo cuore, no? Questa sua commozione, compassione. E giunsero a Gerico e stanno viaggiando verso Gerusalemme. Mentre partiva da Gerico insieme ai suoi discepoli e a molta folla, il figlio di Timeo, Bartimeo, che era cieco, sedeva lungo la strada a mendicare. Sentendo che era Gesù Nazareno, cominciò a gridare e a dire: «Figlio di Davide, Gesù, abbi pietà di me». Probabilmente ecco, questi poveri ciechi allora erano costretti a mendicare, non potevano fare altro. E la guarigione dei ciechi è proprio uno dei segni, come ben sapete, dell'arrivo del Messia, no? Della venuta del Messia. E molti lo rimproveravano perché tacesse. Bartimeo fa un atto di fede, no? E molto grande, molto bello. Ecco, poi nel proseguire la meditazione a me piace vedere quello che ha preceduto questo racconto, in modo tale da comprendere il suo valore, ecco, nel contesto. E prima c'è stato, per esempio, la manifestazione di fede di Pietro, che ha fatto la sua: ecco, tu sei il Cristo, il figlio del vivente. Però poi, subito dopo, Gesù ha dovuto rimproverarlo, perché gli ha detto: questo non accadrà mai a te, quando gli parlava della sua morte. Invece in questa manifestazione di fede di Bartimeo c'è una totale disponibilità a Gesù, e un mettersi nelle sue mani, come anche noi possiamo fare adesso nella nostra orazione: figlio di Davide, abbi pietà di me. Molti lo rimproveravano perché tacesse. E è molto frequente vedere nel Vangelo ostacoli per arrivare a Gesù. Spesso gli ostacoli sono gli stessi discepoli, no? In questi molti forse c'è la folla, gente che lo conosceva, o forse ci sono anche i suoi discepoli, no? Ma egli gridava ancora più forte: figlio di Davide, abbi pietà di me. Noi lo crediamo nella messa, noi facciamo nostra la preghiera della Cananea che dice: Signore, aiutami. Gesù si fermò e disse: chiamatelo. Ecco, la sua voce forte è riuscita ad arrivare a Gesù nel frastuono della folla, della gente. Chiamarono il cieco, no? E ancora una volta Gesù che, ecco, in questo caso non ha visto notavamo, no, che spesso la vocazione viene presentata come successiva al suo vedere, al suo guardare, al suo incontrare Matteo, Pietro, Giacomo, Giovanni, li vede e li chiama. In questo caso lo ascolta, no? Ha ascoltato la sua voce, che è proprio ecco, un grande insegnamento anche di tutto l'Antico Testamento, Dio che ascolta la nostra voce, no? Ascolta la voce di chi prega. No? Samuele significa Dio ascolta, no? Lo chiamavano così i suoi genitori perché avevano pregato perché potesse nascere, no? Dio ascolta. Chiamarono il cieco dicendogli: coraggio, alzati, ti chiama. Ecco, e questo è un dato positivo, no? Quelli che lo rimproveravano perché tacesse adesso lo incoraggiano, coraggio. E anche Gesù spesso dice così: coraggio. Noi ascoltiamo questo invito al coraggio di Gesù e insieme con Bartimeo anche noi ci alziamo per andare da lui. Egli, gettato via il suo mantello, balzò in piedi, venne da Gesù. E una piccola annotazione, però appunto dopo che il lettore del Vangelo appena ha letto da poco che il giovane ricco se n'è andato triste perché Gesù gli ha chiesto di vendere tutti i suoi averi, ecco, per questo Bartimeo il mantello forse sono tutti i suoi averi. Pensate che nel Deuteronomio si dice che al povero, quello che non ha niente, quello che magari non ti ha restituito, quello che tu gli hai prestato, però gli devi lasciare il mantello, no? O gli devi dare qualcosa perché lui possa avere almeno il mantello. Cioè il mantello è come il segno di qualcosa di essenziale, diventa la tua casa, no? Per il povero che non ha nulla, ti puoi coprire anche se dormi all'aperto, no? Con il mantello. E per Bartimeo è qualcosa che in quel momento gli è di ostacolo. Balzò in piedi e venne da Gesù. Allora Gesù gli disse: che cosa vuoi che io faccia per te? No? Com'è bello Gesù contemplare oggi il tuo cuore, un cuore che è pronto all'ascolto, è pronto a fermarsi rispetto a tutta la folla di fronte a una persona che ti chiede aiuto, è una persona che non ha nulla. A te interessa Bartimeo, appunto, come ti interessa Zaccheo, sempre in quella città di Gerico, questo lo narra San Luca, ti interessano tutte le persone e non ti interessano i loro averi, no? Ti interessa il loro cuore, la loro salvezza. E e ti chiediamo di avere anche noi questo atteggiamento e soprattutto anche nei confronti di quello che è il nostro programma, no? I nostri propositi, che noi sappiamo aspettare, che noi sappiamo fermarci. Quando venne eletto il Papa Francesco, lui stesso nei primi libri, ecco, c'era un aneddoto che raccontava della sua vita, di come si era pentito per aver detto a uno, al treno, uno che gli chiedeva, penso, la confessione, era in una chiesa a confessare, e lui per fretta, poi si è pentito e è tornato indietro, ha ascoltato quella persona. E poi è riuscito anche a prendere il treno. Perché a volte la provvidenza del Signore aiuta anche in questi modi. Noi ti chiediamo perdono, Signore, della chiusura del nostro cuore, del fatto che a volte, cioè, la cosa più importante è riuscire a fare quello che ci siamo proposti, anche addirittura direi compiere il nostro piano di vita, che è una cosa bella e santa, ma è finalizzata al fatto che tu sia presente in noi, perché noi possiamo portarti da tutti. Quando nel breviario, nell'ufficio di lettore, ci sono sempre tante cose belle, e nella vita dei santi c'è, come abbiamo letto, no, della Santa Teresa, e c'è una pagina che è stata ben scelta sempre, no, che esprime il senso della vita di quel santo tra i suoi scritti. E nella festa di San Vincenzo de Paoli c'è uno straccio delle sue lettere. Le sue lettere sono tante, sono molto belle. Bene, che dice ai suoi figli spirituali: se un giorno devi ancora fare l'orazione, ma bussa un povero alla tua porta, no, ti chiama, lascia l'orazione e vai dal povero, no, perché lì c'è il Signore, no? E sicuramente anche, cito spesso, quindi forse l'avete sentito anche un'altra volta, ma anche nostro Padre ha diverse espressioni in questo senso, no? Mi viene in mente che una volta aveva urgenza di parlare di qualcosa di lavoro con quello che era capo della segreteria, che però si chiama Don Ernesto, e stava celebrando la messa in quel momento quando lui l'ha cercato. Allora ha lasciato detto che appena finisce la messa ditegli che ho urgenza di parlare con lui, e lui, quando terminò la messa, glielo dissero subito. E pensò, e ebbe un po' di dubbio: mi fermo a fare il ringraziamento del nostro piano di vita, quei 10 minuti dopo la messa, oppure vado subito dal padre, no? E alla fine decise di andare subito. E il nostro padre, la prima cosa che gli ha detto quando l'ha visto entrare nella sua stanza di lavoro, gli ha detto: figlio mio, oggi hai fatto il più bel ringraziamento della tua vita. E ha capito dagli orari, insomma, in cui aveva cominciato la messa, e che aveva saltato il ringraziamento per andare da lui, no? Così come l'altra volta, a volte raccontavano i primi numerari di italiani che facevano le loro convivenze a Castel Gandolfo, nella Villa delle Rose, che lui andava a trovarli spesso al pomeriggio e stava con loro a tertulia dopo pranzo, ed erano lunghe tertulie, non avevano particolari programmi di lezioni, no, in quell'epoca. Lunghe tertulie in cui il fondatore parlava dello spirito che il Signore gli aveva dato, no? Parlava della nostra famiglia, dell'opera, e così. E spesso, se la tertulia si prolungava, che so, fino alle 5 del pomeriggio, poi cantavano, poi si raccontavano fatti della loro vita, anche barzellette, insomma, ridevano molto. Comunque, terminando la tertulia, diceva il dietro, e oggi abbiamo già fatto l'orazione. No? Abbiamo già fatto, cioè, stando insieme così in famiglia con i suoi figli, era già fatta l'orazione. E così come anche altre volte quando c'era qualcuno che è particolarmente un po' stanco con molto lavoro e aveva questa capacità, se non cosa meglio, di sciogliere, no? Di venire incontro, di dire va bene, la lettura spirituale la fai sul Don Chisciotte, no? Cioè così almeno ti distrai un attimo, oppure così, no? Cioè, sapeva che il piano di vita era un mezzo e non un fine. Se noi per la tensione di riuscire a compierlo perdiamo la pace, no? Perdiamo l'allegria, se non altro perdiamo l'ultima norma, no? Del piano di vita, no? Che è la gioia. Invece quando uno non riesce a fare nulla, almeno mantenere la gioia, no? Così non sono riuscito a fare, non sono riuscito ad andare a messa, non sono riuscito a fare l'orazione, almeno la gioia, no? Me ne sto contento, anche perché normalmente questo capita per fattori esterni e non per cattiva volontà. Allora, ecco, Gesù gli disse: che cosa vuoi che io faccia per te? Come dai, Gesù, importanza al nostro desiderio? Come sei disponibile al nostro desiderio. E il cieco gli rispose: Rabbunì, maestro mio, che io veda di nuovo. Questo non era dalla nascita, no? Aveva perso la vista, quindi sapeva che cosa aveva perduto. E Gesù gli disse: Va, la tua fede ti ha salvato. Vedi, Gesù, tu sei proprio grande perché da un lato ascolti, ci chiami, poi ci chiedi, no? Cosa vuoi che io faccia? Cioè, dai valore al nostro desiderio. E poi, e allo stesso tempo, dopo averci salvato, hai la capacità di valorizzarci in modo così delicato, così sublime, che ci dai pure il merito di quello che è successo. No? La tua fede ti ha salvato. La tua fede non dice io ti ho salvato, no? Vai in pace, la tua fede ti ha salvato. E subito vide di nuovo e lo seguiva lungo la strada. In questo episodio, dopo aver letto appunto qualche, direi poco prima nel Vangelo, sono in questa domenica leggiamo questo, domenica scorsa erano i due discepoli, Giovanni e Giacomo, che vogliono i primi posti, e l'altra domenica era il giovane ricco, quindi è appena accaduto l'episodio del giovane ricco, così un po' in modo un po' scherzoso, divertente con Gesù, mi viene da dire: Gesù, hai fatto esperienza col giovane ricco, no? A cui hai chiesto immediatamente, così in modo chiaro, vendi tutto e seguimi, e con questo agisci in un modo diverso. Dice: vai pure per la tua strada. E lui lo seguì. Come se tu, Gesù, avessi scoperto nella tua esperienza umana che lasciarci la libertà è più efficace. Lasciarci liberi di andare e poi ti vogliamo seguire. Certo, dicevo, questo episodio, noi siamo abituati nella Chiesa, ovviamente nel Vangelo della Messa, a leggere un piccolo brano del Vangelo, ma vedendolo nel contesto anche solo dei primi, sono andato indietro per tre capitoli, no? Cioè ho preso il momento in cui Gesù sceglie i dodici. che cosa è successo dopo, no? Dopo, dopo quella chiamata dei 12 e prima di questo episodio del divertimento, no? Senz'altro si vedono nel Vangelo di Marco tanti episodi che ci dicono il cuore di Gesù aperto a compatire i problemi che incontra, e allo stesso tempo i discepoli che non capiscono niente. E quando vide una grande folla scesa dalla barca, ebbe compassione di loro perché erano come pecore che non hanno pastore. Però i discepoli dicono: devi congedarli, che vadano nelle campagne, nei villaggi a comprarsi da mangiare. E Gesù dice: voi stessi date loro da mangiare, ma dobbiamo andare a comprare 200 denari di pane e dare loro da mangiare. Ma egli disse loro: quanti pani avete? Andate a vedere. Si informarono e dissero: 5, 2 pesci. E così li fece sedere e fa quella moltiplicazione, no? Io vedo in questo atteggiamento tuo, Gesù, cioè contemplando il tuo cuore, tutto il Vangelo ci parla del tuo cuore e non solo, ma tutta la nostra vita. Però attraverso questi episodi del Vangelo di Marco noi vediamo, ecco, ti chiediamo di poter avere noi stessi i tuoi sentimenti e quindi di essere compassionevoli, di entrare di lasciarci toccare il cuore dalle problematiche di tutti e anche di essere pazienti con noi stessi, discepoli del Signore, che a volte mettiamo ostacoli a Lui o anche ad altri a seguirlo. Ed essere pazienti con altri discepoli del Signore che si mettono di traverso, no? Con tutta la buona volontà a volte, pensando di far bene, ma è impressionante vedere, se si legge il Vangelo un po' di seguito, no? Un capitolo dopo l'altro, continuamente quanto i tuoi discepoli fanno fatica a capire e come tu sei paziente nel portarli poco a poco verso la verità. Dopo questa moltiplicazione di pani c'è un passo che dice: subito costrinse i suoi discepoli a salire sulla barca e a precederlo sull'altra riva a Bezzaida finché non avesse congedato la folla. Quando li ebbe congedati andò sul monte a pregare. Come li costrinse, cioè si vede che facevano difficoltà e Gesù vuole essere anche lasciato in pace. Si vede che questi discepoli entravano un po' troppo nella sua vita, no? Vuole andare a pregare da solo. Poi però ha compassione di loro perché li vede remare in mezzo al lago col vento contrario e non riescono ad andare avanti. Allora lui cammina sulle acque e c'è compassione per loro e allo stesso tempo loro che non capiscono. Gesù sta facendo già miracoli, no? Quindi d'accordo, uno che cammina sulle acque è una cosa molto nuova, però il loro cuore è induito, no? Dice proprio: è un fantasma, si misero a gridare, perché tutti lo avevano visto, non erano rimasti sconvolti, cioè lo hanno visto e dicono che è un fantasma. Coraggio, sono io, non abbiate paura. E il vento cessò, salì sulla barca e dentro di sé erano fortemente meravigliati perché non avevano compreso il fatto dei pani. Il loro cuore era indurito. Poi arrivano a Genezaret e gli portano i malati e Gesù si lascia toccare. Quanti lo toccavano venivano salvati. E poi, e certo, poi c'è quel discorso cioè, gli fanno critica perché i suoi discepoli mangiano con mani non lavate, impure. Allora lui spiega, e poi, siccome ci tieni tanto Gesù, chiami tutti, chiamate di nuovo la folla, dice: ascoltatemi tutti, comprendete bene che non c'è nulla dal di fuori dell'uomo che può renderlo impuro, è dal cuore, no? Che nascono, è dal cuore, no? Che nascono le impurità. Siamo sempre molto attenti a quello che viene da fuori, no? un po' di prudenza ci sta sempre, no? Evidentemente. E poi i discepoli lo interrogano su queste parole, no? Ma perché, e Gesù dice: così neanche voi siete capaci di comprendere. In effetti, lo stesso Pietro che sta raccontando queste cose a Marco e ai Romani ha avuto bisogno poi della visione di Giaffa, perché non ha capito che tutti realmente sono buoni e quindi che poi lo aiuta a parlare con Cornelio e a dare il battesimo ai pagani. Non capite che tutto ciò che entra nell'uomo dal di fuori non può renderlo impuro perché non gli entra nel cuore ma nel ventre, va nella fogna. Poi vanno nella regione di Tiro e lui ha compassione, anche se fa un po' di resistenza, ma forse solo per far evidenziare la sua fede, con la donna sirofenicia. E poi ha compassione per il sordomuto che gli portano, e lo porta lontano dalla folla per guarirlo con la sua saliva gli tocca la lingua. Poi ha di nuovo molta folla, anche lì compassione di nuovo, non hanno da mangiare. Sento compassione per la folla. Da 3 giorni stanno con me, non hanno da mangiare e se li rimando digiuni nelle loro case verranno meno. I suoi discepoli come riuscirà a sfamarli? Cioè, hanno appena avuto un'altra moltiplicazione di pani e non capiscono. Allora Gesù, noi guardando come i discepoli non capiscono e ci possiamo un po' identificare con loro e chiederti perdono per gli ostacoli che noi mettiamo alla tua grazia, verso gli altri, no? Alla tua azione verso gli altri. Cioè, vuoi veramente andare verso tutti? Vuoi veramente salvare? Vuoi veramente guarire? Aiutaci a essere tramiti della tua azione di salvezza e non ostacoli con le nostre idee, con le nostre abitudini, con le nostre paure, con la nostra chiusura di cuore. I farisei vengono a chiedergli un segno dal cielo, anche lì lui sospira, Gesù sospira profondamente. Ecco, vorremmo entrare in compassione noi, no? Con le tue prove, Gesù, e imitarti nella pazienza, no? Nella Amoris Laetitia, quando c'è tutto l'inno alla carità, la pazienza è la prima delle sue caratteristiche. E il Papa dice: questa pazienza si rafforza quando riconosco che anche l'altro possiede il diritto a vivere su questa terra insieme a me, così com'è. E non importa se è un fastidio per me, se altri i miei piani, se mi molesta col suo modo di essere, con le sue idee, se non è in tutto come mi aspettavo. L'amore comporta sempre un senso di profonda compassione che porta ad accettare l'altro come parte di questo mondo, anche quando agisce in un mondo diverso da quello che io avrei desiderato. E Gesù è esempio di questa pazienza. E quelli vanno sulla barca e dicono: dice, guardatevi dal lievito dei farisei, e loro pensano che hanno solo un pane. E Gesù, paziente però, messo alla prova: perché discutete che non avete pane? Non capite ancora, non comprendete, avete il cuore induito. Non vi ricordate la prima moltiplicazione di pane e la seconda, quando c'erano 5.000, quando c'erano 4.000 e gli abbiamo dato da mangiare. Compassione per il cieco di Betsaida, Pietro che non capisce la croce, va dietro a me Satana, e poi allora convoca di nuovo tutta la folla e i discepoli per spiegare questo mistero della croce, che loro, se qualcuno vuole venire dietro a me, rinneghi se stesso, prenda la sua croce e mi segua. E sul Tabor anche sì, Pietro cerca di dire qualcosa ma non sapeva cosa dire. E poi quando scendono si chiedono che cosa vuol dire risorgere dai morti. E poi trova un indemoniato che i discepoli non riescono a scacciare, o generazioni incredule fino a quando sarò con voi. E poi ancora lungo la strada spiega la sua passione e la risurrezione, ma non capiscono. E poi arrivano a Cafarnaum in casa, di cosa stavate discutendo? Ancora di chi è il primo, no, tra loro. E poi Giovanni dice: ho impedito a uno che scacciava i demoni nel tuo nome. Cioè, loro non riescono, però impediscono a uno che riesce, no? Sono veramente insopportabili, cioè. Loro non riescono a scacciare i demoni, ma c'è uno che ci riesce, siccome non ci seguiva, perché a volte le invidie si coprono, no, di motivazioni, le invidie, motivazioni. Anche a volte anche di opportunità, di virtù, no? Di criterio, di fede, ma sotto sotto se ci esaminiamo, quando facciamo qualche intervento di questo tipo anche noi, c'è un po' di invidia. Perché quella, pensate, se arriva, ecco, arriva una persona magari non battezzata, magari, o comunque lontana dalla pratica della vita cristiana e che fa miracoli, no? Che tocca il cuore delle persone, che ci dice una cosa molto più saggia, più santa, più profonda di quella che noi abbiamo mai detto, e lì dobbiamo avere l'umiltà di pensare che Dio fa queste cose, che parla come vuole attraverso chi vuole, no? E in genere fa così, no? Maria Giuseppe parla attraverso i pastori, parla attraverso, no? I magi, parla, non è che parla sempre direttamente. Perché questo ci aiuta nell'umiltà, no? Noi non abbiamo farina del nostro sacco, cioè abbiamo ricevuto tutto e anche le cose belle sono ispirazioni, abbiamo fatto quello che dovevamo fare, no? Anche quando abbiamo studiato un po' e meditato un po', ma è stato il Signore che ci ha illuminato sempre. Per cui possiamo ascoltare una cosa bella da chiunque ce la venga a dire. Non vogliamo essere esclusivisti, no? Siamo noi che abbiamo la verità, siamo noi che abbiamo la ricetta per la salvezza. E gli presentano dei bambini perché li toccasse, ma i discepoli li rimproveranno. E Gesù, al vedere questo, si indignò e disse: lasciate che i bambini vengano a me. E poi c'è il giovane ricco, sono sconcertati, ma sono sconcertati perché sono loro ricchi, non per. Non è che dicono: ah, questo doveva proprio lasciare tutto. E quindi. E poi si rendono conto che sta per succedere qualcosa, ma non sanno cosa. Giacomo e Giovanni, i figli di Zebedeo, gli si avvicinano per chiedergli di essere nei posti migliori. E dopo che Gesù già ha spiegato loro, no, che non ci deve essere qualcuno più grande tra loro, e dopo tutto ciò arriva Bartimeo. Ecco, vedete come questo incontro con la semplicità del cieco può avere consolato il cuore di Gesù. Noi vorremmo, Gesù, poterti consolare, no? Il venire ad aprire il nostro cuore a te con molta semplicità e lasciare ciò che dobbiamo lasciare per seguirti e per servirti con l'aiuto e la benedizione di Maria, nostra madre.